Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. L'è fatta così presto, rammento l'armatura su cui si stende il tuo vermiglio manto, caduto al suolo nella brulicante arsura di mille paleontologi in disparte. E con questo ritmo così incalzante, ecco che entriamo in Storielle. Con quale storia oggi, ascoltatrici e ascoltatori? Lo scoprirete tra pochissimo, anche se molti con orecchio fino, ma insomma, diciamo, senza tante difficoltà avranno indovinato. Io, come sempre, ho qui il mio ospite accanto. Gli chiedo però come si potrebbe definire, quali tre aggettivi potrebbero descriverlo? Allarga le braccia un po', o trionfalmente o sconsolatamente? No. Per declamare, sì. Li ho proprio scritti. Sì. Dunque... Antroposofo. Esteta. Sì. E sensitivo ambientalista. Questo è un po' complesso, il sensitivo ambientalista, ma effettivamente in qualche suo brano, anche di questo ultimo album, si parla anche di ambiente, insomma, in modo abbastanza preoccupato, diciamo. Fa il mago, che ha un po' quest'aria, no? Il tabarro, il mantello, questa volta ce l'hai? No, c'è una forma nessun di... nessun cilindro, nessun mantello, c'ho il pizzetto. E comunque, insomma, siamo qua. Sergio Cammariere, finalmente tornato, a distanza più o meno di tre anni, no? Sì. dall'ultimo album, il cantautore piccolino, ed eccolo qui arrivare con, è proprio il caso di dire arrivare, con le carovane. Senti Sergio, intanto poi ne parleremo ovviamente di questa tua ultima fatica, 13 tracce inedite, quindi completamente nuovo, due strumentali, perché sì. Sergio Cammariere, lo sapete, è pianista raffinato, grande musicista, cantautore coinvolgente, un grande interprete, appassionato. Abbiamo sentito questo ritmo, ma varia poi moltissimo anche nel resto dell'album, no? Sì, perché sono comunque... tutti brani maggiore, ecco, sono meno cupi degli altri album precedenti, è un disco più solare. Che però non erano cupi, sempre c'è. No, c'è, erano più malinconici, sì, erano più romantici, sì, però sì. Stavolta, oltre a parlare d'amore, si parla di ecologia, di ambiente, di politica, guerra, di pace. Di sociologia. brava, di etica. E affronteremo man mano questi argomenti. Però intanto Sergio Cammariere, dove è nato, per ritornare alle sue origini? A Crotone. La Calabria ultimamente è molto nell'occhio del ciclone. Allora sì. Io vorrei che tu dicessi che cosa è significato per te essere nato in Calabria, che cosa senti anche per la tua terra. Beh, sicuramente il pensiero pitagorico, la scuola... Vogliamo subito alto, eh? Cioè, da dove dobbiamo cominciare? Se no parliamo di uranio. Cosa no. Preferisci? Dei fusti appostati. Sì, abbandonati nei nostri mari, ecco. L'armonia mi ricorda la natura, il mare, le onde del mare che cullavano questo bambino che suonava appunto... La melodica all'inizio? La melodica, che era uno strumento didattico, che ho utilizzato tra l'altro anche in questo album Carovan. Il risveglio di questo bambino che sentiva proprio le sinfonie, sentiva una musica che arrivava proprio da una valle pitagorica, da un Devakan, da un qualcosa di astrale. Da un corpo astrale. Un bambino solitario, raccolto nel suo modo di sentire la sua passione, di svolgerlo? Eh sì, oppure... è sempre molto individuale l'ascolto della musica, bisogna ascoltarla da soli, senza nessuno, perché è concentrazione. E hai avuto dei genitori, una famiglia che ti ha appoggiato in sì. questo, che ha capito subito il certo. tuo talento? Stranamente, nonostante l'ignoranza dei miei genitori, perché io vengo da una famiglia contadina, però mi hanno sempre lasciato libero di poter suonare, di partecipare a recital delle scuole elementari, dove appunto Sergio Cammariere suonava la melodica. Sai che ho suonato anche a Lugoletta d'Oro di Castrocaro Terme. Ma niente, un po' di meno. Sì, quanti anni avevi a Lugoletta? 10 anni. 10 anni? Sì. Quindi insomma hai iniziato a esprimere presto le tue capacità, no? Si è... E poi una cosa che si ripete quando si parla di Sergio Cammariere è che il grande successo di pubblico, in realtà, rispetto a quante cose aveva fatto, mi pare che già nel 93 tu avessi fatto un primo album, se non sbaglio. Nel 90 ho fatto la mia prima colonna sonora, nel 92-93 insieme a Roberto Kunstler, il mio primo album di canzone d'autore, poi nel 97 il premio Tenco. Beh, di premi ne hai vinto. Di premi tanti, sacco, premio De André, no? Premio Carosone, premi e poi finalmente il Festival di Sanremo del 2003 che mi ha consacrato. Tutto quello che un uomo. Se non fosse per te. No, vai avanti, ero rapita, dovete che adesso ce ne canta un bel pezzo. Era veramente tanto tanto bella anche quella canzone. Ma poi altra partecipazione, no? Abbastanza nel 2008, se non sbaglio. Sì, un'altra partecipazione, una sorta di incidente, perché io stavo cominciando a lavorare alla scrittura di questo nuovo album, mi è stato chiesto, Baudo, vieni, e sono andato. E poi è venuta fuori quella compilation Cantautore Piccolino, che era una raccolta di tutti i brani dei primi album. Senti, che tu sia un esteta, questo si vede già fisicamente e nella tua musica raffinata. Beh, armonia estetica, armonia, certamente. La bellezza è armonia. Però tutto quello che un uomo, che uomo sei tu, Sergio Cambarini? Sono un uomo apparentemente schivo, ma profondamente generoso. E chi lo dice questo? Beh, le persone che mi stanno intorno, anche il fatto di, così, di vivere questa vita semi-sacerdotale e chiudermi affinché possano nascere queste opere, queste canzoni. Un po' lavori da elargire al pubblico. È vero, sì. Ma nella tua vita tu... farei, a parte che essere un po' così ascetico, antroposofico, eccetera. Antroposofo, sì, steineriano. Sì. Steineriano, sì, sì. Perché, come posso dire... ho adottato l'antroposofia dentro di me per conoscermi meglio, appunto per conoscere la mia parte più umana, anche perché sono un talento puro, sono un autodidatta e questo dono mi è arrivato comunque. Hai fatto il conservatorio? No, minimamente. Io sono proprio... Cioè dalla melodica in poi? Sì, sì, ho suonato, sì, dalla melodica al pianoforte. Subito suonavo per Elisa e poi le sonate di Beethoven fino a Debussy, Ravel... E quindi mi sono sempre chiesto da dove è venuto questo dono. Il dono è arrivato dalla divinità. Tu sei credente? Molto, sì. Sono credente. E cercato come Santiago, sai, Santiago nel libro di Coelho, l'alchimista, di intraprendere un viaggio, di cercare di raggiungere la scala sapienziale prima di arrivare alle piramidi d'Egitto. Tutto questo grazie... raggiunto finora queste no, però pezze. Sono però il deserto l'ho attraversato, credo, e adesso sono a buon punto. Ma questa cosa del deserto mi interessa molto, capire se è una questione, una metafora esistenziale oppure di... Beh, la metafora c'è, perché le carovane in fondo sono generazioni senza luogo e senza tempo che... I cicli della si vita rendono si conto dell'esistenza della... Certo, attraversano comunque tutti lo stesso deserto, tutti gli abitanti della terra, i leggenti, i popoli sono carovane. Chi sta seduto, chi spinge un po' di più, insomma, comunque certo, per si può tutto viaggiare anche stando fermi, perché... E intanto noi ci fermiamo, proprio di stare fermi, proprio pochi istanti, e poi ritorniamo di nuovo con Sergio Cammariere. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, e con me Sergio Cammariere, che ha appena pubblicato il suo ultimo album Carovane. Stava parlando appunto di questa metafora corale della vita, degli esseri umani che attraversano il percorso dell'esistenza, e tu mi dicevi, insomma, il deserto lo attraversano tutti, chi è un po' più comodo e chi meno, la cosa più desertica... La perdita dei miei cari, sicuramente, sì. Quello è il momento di deserto, più cioè la grande sofferenza, cioè dietro un deserto. Invece una grande prateria... Che momento l'hai? Beh, è l'improvvisazione, la musica, questo dono divino che poi io trasmetto durante i concerti, quando suono dal vivo, è una simbiosi con chi mi ascolta. Quindi, ritornando indietro, abbiamo detto che al successo sei arrivato nel 2002, primo album Dalla pace del mare lontano, bellissimo, vari premi, sì. Poi tu hai vinto nel corso della tua carriera almeno 2 o 3 dischi di platino, 2 d'oro. 3 dischi di platino, 3 d'oro, poi premio a Montpellier l'ultimo per il film di Mimmo Calopresti, miglior colonna sonora. Colonna sonora, sì. Che tu hai scritto, ne hai scritte diverse. E tante altre cose. Grandi soddisfazioni. Poi, sì. Abbiamo detto, nel 2003, Festival di Sanremo con Tutto quello che un uomo, nel 2004 esce Sul sentiero, poi Il pane, il vino e la visione, poi Cantautore Piccolino nel 2008, che dicevamo era appunto questa raccolta di canzoni scelte dal pubblico. Nel frattempo sono stato in tutta Europa, ho suonato in Francia, in concerti in Germania, concerti in Olanda... Anche pochi mesi fa ero a The Hague Jazz Festival, in Spagna. È bello suonare oltre i confini e essere apprezzati. Probabilmente tu hai anche il fascino del musicista con il suo piano. E con, è vero, no? Questo... è vero, sì. È uno strumento ormai medianico, è tutta la mia vita. Io attraverso quello strumento divento un po' il chiaroveggente. E dicevamo anche che questo è un caleidoscopio, questo ultimo album di ritmi, sensi, di colori, di sensi. Però la tua musica in genere lo è, no? Tu citavi prima la musica classica, ma certo, c'è del jazz, c'è, ci sono le sonorità brasiliane, sì, la musica mi ascolti, francese, tutto anche quello che ho ascoltato da quando ero bambino poi è diventata la mia musica. Quindi la musica classica, non posso non citare Beethoven o Stravinsky. Nel jazz non posso non citare Teddy Wilson, Jarrett, Bill Evans. E nella bossa nova, Jobim, Chico Buarque de Holanda, insomma. Invece, per citare uno dei 13 brani del tuo ultimo album, I quadri di ieri. I quadri di ieri, ecco, sì, che è bellissima. E tu a un certo punto dici il colore dominante della nostra giovinezza. Il tuo qual è stato? Sicuramente avvicinarmi alla poesia francese, ecco, quella di Mallarmé, di Rimbaud, di Baudelaire. E ora, il tuo colore dominante in questo momento della tua vita qual è? L'azzurro. È un oceano onirico dove insieme alla mia musica ci sento Pessoa, Kafka, Svevo, Benjamin. Sei anche molto colto, no? Ma leggo, mi piace, ho questo tarlo. Anche in questo album c'è la collaborazione del tuo compagno d'avventura di che è Roberto sempre, Kunstler, no? Ma insieme a lui poi ho voluto coinvolgere tantissimi musicisti. I musicisti, no, che ti seguono. Sì, da... c'è Fabrizio Bosso, c'è Javier Girotto al sax baritono. Infatti Carovane ha un assolo di sax baritono, non si sentiva da tanti anni una roba del genere. Ho voluto coinvolgere musicisti indiani, la tabla, il sitar, la tampura, la vina, invitare chitarristi storici come Jimmy Villotti, o come Michele Ascollese, che è stato il chitarrista di Fabrizio De André, interpretando appunto alcuni brani con la chitarra elettrica che non avevo mai utilizzato. Sì, un particolare, sì, è quasi musica progressive questo disco, più che jazz è un progressive etnico. Tra l'altro mi pare tu abbia detto il prossimo sarà un disco diverso, rock, sì, un disco, sì, rock, ma è infatti possibile, è mellow rock. Sì. Infatti se lo ascoltate tutto alla fine c'è l'ultima traccia, è proprio un, sì, poema rock. Certo, immaginarselo tutto un album rock con Sergio Camerieri sarà una bella sorpresa comunque. No, infatti, no? Il jazz è sempre predominante, più che il jazz è l'improvvisazione, perché poi dal vivo chi mi conosce, chi ha visto oltre 40-50 concerti miei, che mi segue in tutta Italia, sa che ogni volta è una cosa diversa, ogni volta è nuovo, ogni volta giochiamo con la musica e cambiamo le canzoni, le facciamo diventare una cosa a sé. Quindi dicevamo, Sergio, tu artista colto da ampio raggio sia sulla musica ma anche sui temi, insomma, dell'esistenza, dall'amore ovviamente, ma anche i temi di impegno sociale, la, sì, politica. Per esempio c'è un titolo piuttosto significativo, e anche il brano lo è molto, poi Paese di finti, sì, no? Sì. Questo Paese di finti ne dici parecchi all'interno: un paese di matrimoni e scandali in TV, certo, non contano più i meriti o il lavoro, regna solo l'ipocrisia, cataclismi sulla magistratura, sì, si fa gara a chi ruba di più, insomma, certo, anni tristi, ecco. Io credo che questa politica che avanza, diciamo che sembra sempre meno fatta per la gente, perché non c'è più dialogo, non c'è più confronto, non ci sono idee, non ci sono ideali, non c'è più un pensiero, una linea che accomuni, guardiamo sempre i soliti litigi, botte e risposte, scandali di tutti i tipi, e credo che, ecco, la gente sia molto stufa, si sia distaccata. Dalla politica, dici? Sì, rende tutti più individualisti, più chiusi, e comunque mi piacerebbe più parlare di etica che di politica, che non è il mio mestiere. No, no, no. Però questo malcontento me lo sento sulla pelle, perché ricevo tante mail. Il tuo brano, seppur un swing molto spiritoso, molto è uno cantante, swing, però... sì, esatto. Però, insomma, anche perché in passato io avevo scritto degli swing insieme a Roberto, per esempio il Paese del Gol, si parlava del mondo del calcio, Cantautore piccolino era un omaggio a tutti i cantautori. Questa volta invece parliamo un po' della nostra realtà. Ma qualcosa che ti irrita in modo particolare, quello che ti irrita di più? La volgarità. Ecco, questo. Perché secondo te invece in tempi come questi, che tu giustamente definisci anni tristi, insomma, perché ha tanto successo la rozzezza, la volgarità in televisione come anche in politica, e si riveste, come dire, di un'immagine un po' più, tra virgolette, presentabile, dicendo quella persona è vera, quella persona dice quello che pensa, poi le cose peggiori, fanno le cose peggiori. Come mai? Io non sopporto più le parolacce. C'è la gente che ormai dicono parolacce in continuazione a tutti gli orari. Ma non solo le persone comuni, no? Ma in televisione, no, in televisione, ma in politica. Esatto. Che cosa hai dato, secondo te? Ma secondo me è mancanza di civiltà, è mancanza di cultura. Cioè, qua c'è arte dimenticata. Quindi c'è un po' più di cultura, un po' più di etica, E l'amore nel senso più tradizionale, che cosa ti verrebbe da dire, a parte le tue canzoni? Ma quello di coppia? Questo è quello di coppia. Ma io credo, proprio il nucleo della deontologia morale, etica, è darsi l'un con l'altro, al di là se dello stesso sesso, no? Al di là delle discriminazioni e delle cose, anche al di là degli aspetti religiosi. Una cosa molto bella questa. E un uomo alto e sottile, magro, di cosa si ciba in genere per andare su questioni più prosaiche? Una dieta, diciamo che provo a mangiare il secondo a pranzo e il primo a cena. Non mai mischiare le due cose, ecco, se posso fare il dietologo. Ci interessa che tu sia un di nutrizionista, insomma. Mangiare tanta frutta, tanta verdura ed ecco che si rimane così, insomma, longilinei. Presentaci il tuo album, Carovane. Cioè come? Alla radio, così? Se tu, sì, dovessi dire, è come accompagnare un bambino per mano, no? All'insegnante, il primo giorno, e dici, guarda, questo bambino è così, così, cos'ha. Questo è un album etnico, immaginario, dove ci ho messo tutta l'anima e ho messo tutto me stesso. Come sempre, no? Sì, ma questa volta proprio tanto, tanto, perché ho passato un deserto, ho perso il mio produttore, ho perso i miei genitori nel frattempo, quindi è stato un album sofferto e credo che ci sia purezza e verità. Le cose che non hai mai detto, ce ne dici una delle cose che non hai mai detto? Le cose che non ho mai detto, che la musica è un'arte dell'avvenire. E ad essa saranno posti ancora i grandi compiti per l'ulteriore evoluzione dell'umanità. Caspita, quindi sei ottimista. È una frase steineriana. E invece da un pulpito cosa diresti? Se avessi qui a disposizione un cubo sul quale metterti in piedi e dire, a proposito, questo paese di finti, ne dici... Dico questo, che attenzione ai reality, attenzione a questi talent show, perché offrono un'occasione a questi ragazzi appunto di venire fuori, ma poi vengono abbandonati. La gavetta si fa giorno per giorno, ci si guadagna il pane, ci si paga l'affitto, la benzina, il resto, suonando tutti i giorni anche nei luoghi appunto che non è la televisione, non sono le grandi platee. Si può fare umilmente anche suonando le cover nei locali e creandosi l'indipendenza, facendo i camerieri, facendo i baristi, facendo per esempio cameriere ha fatto l'orafo, io ho riscosso le quietanze per l'assicurazione, ho fatto il barista a Firenze, ho fatto il pianista di servizio in tutte le varietà possibili. Insomma, bisogna fare la gavetta per arrivare al dunque, altrimenti il pubblico non ti crede. E tu, ma, mentre facevi queste cose, questi mestieri, ci hai creduto fino in fondo a quello sì. che volevi fare? Cioè, ma sì, perché la musica è una dea. È una divinità, ecco, e ti aiuta veramente in un modo inconsapevole, cioè lei ti sta sempre vicino e ti aiuta nei momenti più difficili. Ma ti sei dovuto aiutare tanto anche tu, però, no? Come sì, si dice, beh, ci vuole anche idea, un po'. Ti aiuta, insomma. Beh, a voglia, certo, da buon meridionale mi sono aiutato con tutte le mie forze. Sergio Cameriere, in chiusura, questa che puoi vedere qui, è la lampada di Aladino. Oh mamma! Se tu dovessi a questo punto della tua vita, della tua carriera, intanto ovviamente ci auguriamo che Carovane vada benissimo con le sue ruote, che desiderio esprimeresti? Sì, esce lì da Aladino. Sì, dalla sì, appena noi leviamo la chiusura qui esplode, preso, vuol dire, si cioè, spera, quindi uno dei miei desideri? Sì. Qua. Beh, uno dei miei desideri è quello di congiungermi sempre di più a un essere supremo, all'architetto dell'universo, pregandolo, perché fare musica è anche preghiera, e di poterlo fare per tutta la vita che mi rimane. Quindi una musica che salga sempre più in alto, sì, sempre sì, più dentro sì, di te. Sì, sì. Grazie Sergio Cameriere. Grazie a voi. Ciao. Questo è un paese di finti, di calcio, di politica in TV, democristiani e leghisti, per senso rimane tabù. Finché la notizia di quel presidente in mutande fa il giro del mondo e diventa una cosa che fa di uno stress qualunque, una diva, una celebrità.